Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Non mi aspettavo nulla, proprio avevo in mente come una montagna che sto scalando da tanti anni, ma non parlando di risultati o medaglie, più una metafora per la mia visione di sport in generale. E vedevo che ero quasi in cima, ma che mi mancavano gli ultimi passi. E mi dicevo, abbi coraggio di fare gli ultimi passi. So che sono quelli più difficili, però dopo hai una bellissima vista. È come la mia patria, le Dolomiti. E ecco, ho pensato solo a quello e mi in certo senso ha aiutato a volare. Io penso che le emozioni più forti sono quelle che arrivano quando meno te l'aspetti. E quindi per me è veramente una cosa bellissima e penso che con il passare dei giorni e il passare delle gare, della chiusura, anche poi a casa mi renderò conto cosa sta succedendo. Buongiorno a tutti, Franco Piantrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia. La Juventus batte Trabzonspor, la Fiorentina Lesbjerg e Carolina Kostner, la tensione, la pressione che sembrava, per usare le sue parole, una montagna invalicabile dell'Olimpiade. Certamente lo spettacolo sportivo più elegante della serata, insieme, permettetemelo, a qualche canestro di Keith Langford nella vittoria dell'Armani sul Malaga in Eurolega. Ma restiamo a Sochi, Maria Pia Vas Beltrán, ciao! Ciao, buongiorno a tutti! Sei divertita? Bello, eh? Mi sono divertita, l'abbiamo adorata perché sul ghiaccio è stata veramente elegante. Tra le tre, a mio gusto personale, anche la coreana avrebbe meritato l'oro e sono in buona compagnia perché dopo la vittoria della russa 17enne, insomma, qualcuno ha detto che Putin ha fatto, insomma, ha esercitato qualche tipo di pressione. Ma non è vero, ma non ci credo, ma dai, solite polemiche. Ma no, non è vero, ha meritato di vincere la russa, dispiace per Carolina Kostner. Poi no, sì. Beh, Carolina è stata contentissima per il bronzo perché per lei ha dichiarato è come aver preso un oro, soprattutto perché sappiamo i suoi precedenti, certo, nelle Olimpiadi, certo. È andata male a Torino, male a Vancouver e sì, lei soprattutto voleva fare la sua gara e infatti la voce che abbiamo raccolto, tra cui alcuni stralci che abbiamo sentito poco fa, era proprio di una persona equilibrata, contenta perché aveva patinato come voleva lei. Poi la medaglia è stata una conseguenza. Ma smette adesso? Sì, lei ha detto che la prima domanda che le hanno fatto qualche collega le ha chiesto se pensava già a una famiglia e si è detto no, beh, adesso che ho appena vinto la medaglia olimpica magari quello non è il mio pensiero. Sicuramente fa i mondiali in Giappone che inizieranno a marzo e poi vedrà con gli allenatori un po' guardando dentro a se stessa cosa vuole fare. Senti, com'è la situazione? Sicuramente dedicherà molto meno tempo agli allenamenti. Sì, certo, comprensibile. Com'è la situazione ambientale oggi? Sempre grandi problemi in Ucraina. Insomma, la situazione diciamo è molto difficile lì, anche a Sochi. Sì, un pochino, allora si è un pochino tra virgolette distesa la situazione dopo che ieri appunto è arrivato il retromarcia da parte del comitato ucraino rispetto agli atleti che insomma sono stati invitati a rimanere, quelli che ancora devono competere, mentre gli altri che hanno concluso le gare sono ovviamente rientrati in Ucraina. Un pochino più appunto di tra virgolette calma per quanto riguarda il fronte appunto politico. L'idea proprio del CIE era quella di tenere il più possibile lontano la politica dai giochi. Dopo la giornata di ieri in cui se ne è parlato veramente tanto di insomma degli scontri, delle proteste, del tipo di protesta che anche gli atleti volevano portare e del minuto di silenzio che è stato fatto in casa ucraina, oggi un pochino meno, ecco. Allora, un'ultima cosa che ti voglio chiedere. Oggi torna in gara la signora delle medaglie, cioè Arianna Fontana nei 1000 metri ha più collane al collo della Madonna Pellegrina, Tra l'altro, se per caso noi ovviamente incrociamo le dita, sì. Ovviamente dovesse arrivare la quarta medaglia, sarebbe un record a livello mondiale per quanto riguarda lo short track, perché nessun atleta ha mai vinto 4 medaglie proprio nella disciplina in cui sarà impegnata Arianna Fontana questa sera. Senti, ti lascio con un messaggio di Marco, un nostro ascoltatore, che scrive: ma cosa fai? Parli male di Putin, vuoi farti arrestare? Occhio, torna. torna indietro. Se lunedì non mi vedete rientrare in quel di Milano, venitemi a prendere, insomma, vi spiegate le vostre forze. Ti veniamo a prendere noi. Ciao Maria Pia, esatto. Grazie. Un abbraccio. Ciao, un abbraccio, ciao, grazie. Ciao. Maria Pia Vas-Beltrán. 800240024, numero verde, poi ovviamente calcio, poi arriva Pardo più tardi, arriva la Cruciani, insomma un gran casino, state con noi e partecipate. 800240024, numero verde. Tutti convocati. Alla fine da parte nostra c'era la volontà e la voglia di trovare il secondo gol e questo ci ha portato ad essere un po' più lunghi del solito. Anch'io ho preferito anche un po' sbilanciare la squadra proprio in virtù di rischiare di fare un gol in più. Sì, l'ho detto prima, che è una squadra che palleggia bene, che hanno velocità, il calcio inglese è sempre più veloce, più intenso. E l'abbiamo visto, abbiamo sofferto, positivo che non abbiamo subito gol. Sì, ma questa Fiorentina, l'ho detto anche alla vigilia, non ha mai tradito, sono persone grandi valori oltre ai giocatori, quindi dopo una sconfitta hanno sempre come interpretazione risposto nella maniera giusta. Oggi abbiamo messo anche con l'interpretazione necessaria, insomma giocando anche con altre caratteristiche, su un campo ci siamo adattati all'avversario, al campo e alla situazione. Sono una buona squadra perché sul piano di fraseggio, sul piano tecnico, anche una buona vivacità, buona organizzazione di gioco. Ci hanno creato qualche problema, però noi lo stesso, di tutto 4 o 5 occasioni mi sembra le abbiamo avute e non l'abbiamo messa dentro, ecco, questo è poi il rigore, era importante. Male, molto male, solo la Lazio, le altre invece hanno affrontato finalmente in modo serio e questa forse è la vera novità, la vera così sorpresa di questa edizione dell'Europa League, dove di solito andiamo con l'infradito, invece quest'anno probabilmente qualcosa magari combiniamo. Allora, il mio amico Andrea Schianchi sulla Gazzetta dello Sport di oggi ha analizzato la partita di Carlos Tevez. Quelli che ai mondiali non ci vanno, e secondo me Sabella è pazzo. Ciao Andrea. Ciao Carlo. Come si fa a non portare Tevez ai mondiali? Ma ne hanno tanti e loro da sì, vabbè, devo dire che l'Argentina non è mica messa male in attacco, perché Messi, Higuain, Agüero, compagnia bella, insomma ne hanno parecchi. Sì, poi Tevez continua questa stranissima astensione dal gol, pur essendo un giocatore, anche ieri sera, clamoroso. Sì, ieri sera ne ha sbagliati almeno un paio clamorosi, però devo dire che è di un'utilità spaventosa, perché comunque lui è davvero una seconda punta, a mio avviso, perfetta. Dopodiché probabilmente ad alto livello europeo, e quindi mi riferisco alla Champions League, magari fa ancora fatica, non è a livello dei grandissimi, e parlo di Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo o questi, però in Europa League lui secondo me può fare la differenza, così come la fa nel campionato italiano. Sì, ma poi cosa vuoi che ti dica, è sempre una questione di stelle. Adesso tu, il primo nome che hai fatto è quello di Ibrahimovic, mi pare. Sì, io quest'anno tifo Ibra, vorrei vedere Ibra alzare quella coppa, vorrei vedere, però fino a questa stagione un po' questi discorsi li abbiamo fatti anche per Ibrahimovic, no? Mostruoso sul fronte interno, coniglio bagnato sul fronte esterno. Quest'anno invece la dimensione è un po' diversa. Quelli che ai mondiali invece, lui ai mondiali non andrà ovviamente, quelli che ai mondiali invece potrebbero andare, Osvaldo. Guarda, su me Osvaldo è un buon giocatore, un buon attaccante eccetera, ma io è un periodo che sto seguendo un attaccante che gioca in una squadra non grande, diciamo così, non enorme nel campionato italiano, e mi riferisco a Ciro Immobile. Secondo me in questo momento Immobile è uno degli attaccanti più forti che abbiamo in Italia e credo che abbia la possibilità di arrivare pure lui al mondiale. Sono a d'accordo. Me personalmente piace di più Immobile di Osvaldo, ecco. Sì, giocatore diverso, diverso, però giocatore che intanto l'ha buttata dentro in qualsiasi campionato abbia giocato, perché sì. L'ha buttata dentro in primavera, l'ha buttata dentro con il Pescara, l'ha buttata dentro adesso, quindi sono quei giocatori che evidentemente hanno il senso del gol, diciamo così, e a me francamente sta piacendo davvero molto, Poi si tratta alla fine di trovare il partner di quello che ai mondiali andrà di sicuro, e cioè il bad boy Balotelli, oggi classifica di France Football sui cattivi ragazzi del calcio, però è solo decimo, Il primo è l'inglese Robin Friday, secondo Raddock, io sinceramente questo non mi ricordo, terzo Tofting, di lui qualcosa mi ricordo, Balotelli decimo, vabbè. Cantona 13esimo, Asprilla 19esimo, Maradona solo 22esimo. Ah, Maradona... Asprilla 19esimo? Sì, 19esimo. Non sanno che cosa dicono, Sì, perché lo conosco piuttosto bene, so quello che aveva combinato. Ma al di là di questo, io credo che di partner ideali per Balotelli, cioè il partner ideale per Balotelli sia davvero difficile trovarlo, perché mi sembra sempre di più che Balotelli sia fermo su uno scoglio, non abbia ancora capito il mare che gli sta davanti, ecco. Perché il modo in cui gioca, io parlo del modo in cui gioca, a me non interessano francamente i gossip o quello che succede all'interno, certo. Non lo guardo, ma il modo in cui gioca non è un modo, a mio avviso, adatto non solo al Milan ma adatto a qualsiasi squadra, cioè un centrocampista che avanza con il pallone deve darlo a Balotelli, a mio avviso fa fatica, sì. Perché Balotelli non detta il passaggio, perché Balotelli non va nello spazio, perché Balotelli vuole il pallone sul piede, e secondo me invece lui avrebbe davvero bisogno di fare un salto di qualità dal punto di vista delle conoscenze calcistiche, sì. Mi sembra che non lo stia facendo. È quello che un'analisi simile a quella che ieri ha fatto a questi microfoni il tuo amico Arrigo Sacchi, analisi puramente calcistica che non l'avevo sentita, però insomma, però sono in discreta compagnia. Sei in discreta compagnia. Io continuo a pensare che Balotelli sì, vero, troppo lampeggiante, però quei lampi sono abbaglianti, è vero, può migliorare tatticamente, è vero, non detto al passaggio, è anche vero che nel Milan se non la sbatte dentro lui diventa difficile, e anche in nazionale mi sembra che giocatori così creativi non ce ne siano. Sì, no, su questo sono d'accordo, però lui che quest'anno mi sembra vada per i 24 anni, perché è un 90, mi pare che si sia un pochino fermato nel percorso di crescita, e questo lui si basa tantissimo ancora sulla forza. Guardate il gol meraviglioso che ha fatto contro il Bologna, pura forza, pura tra virgolette follia, ma lui ha le caratteristiche tecniche e fisiche per fare molto di più. Uh-huh. Il problema è che deve scattare dentro di lui una molla. Uh-huh. E deve dire adesso voglio imparare a giocare a pallone, sì. Che non significa giocare soltanto facendo i palleggi o facendo i tiri forte, ma significa giocare con i compagni e per i compagni, perché se no è fine a se stesso, ecco. Sì. Un altro che ai mondiali, pensa a te, quelli che ai mondiali va bene, ho letto oggi un'agenzia di scolari che dice se Adriano torna a quello vero, ma chissà, Adriano è un altro che conosci bene, Messi maluccio in Brasile, Diego Costa ha detto no guarda gioco con la Spagna, non mi rompete le scatole, sto qui. Diego Costa è un bel giocatore, gran bel giocatore, però non è che siano messi benissimo, se Scolari dice queste cose, beh, preoccupante per i padroni di casa. Loro prima punta credo che giocherà alla fine Fred, che non poi mi sembra esattamente un califfo. No, poi hanno Hulk, poi hanno il fenomenino Neymar, però sai, loro giocano in casa. Poi Scolari, io è un altro allenatore che conosco abbastanza per averlo seguito a lungo nel 2004 col Portogallo, poi anche quando era con il Brasile, ed è uno che si basa tantissimo sull'organizzazione difensiva. Io credo che al mondiale sia fondamentale avere una grande organizzazione difensiva e prima di tutto non prendere gol, sì. Probabilmente non solo al mondiale ma dappertutto, ecco. Anche se in una manifestazione corta, compressa, che si gioca sull'emotività come il mondiale, avere comunque uno che che riesce a risolverti anche partite che bloccate, partite che non. Sì, certo, però sai, se tu cominci a non prendere gol, male che ti vada, fai 0-0. Fai 0-0, questo è vero, ed è il motivo per cui io, insomma, nel fantamondiale, comunque, se dobbiamo pensare, l'ho detto molte volte, a un ripescaggio illustre, i nomi di Totti e Cassano mi sembrano i più suggestivi. Poi i nomi? Totti e Cassano, poi è chiaro che è una suggestione. Sì, più il primo del secondo, mi sembra che per il secondo sia un po' tardi. Sì, secondo me sì. Il primo, se stesse bene, effettivamente sarebbe un valore aggiunto, però bisogna vedere se sta bene, perché ancora adesso è infortunato. Purtroppo lui ha avuto un meraviglioso inizio di stagione, poi ha avuto questo infortunio, sì, mi sembra intorno a ottobre-novembre, e non ne è realmente bene uscito, perché chiaramente ha 37 anni, anzi va per i 38 perché è un 76. Sì. No, ma certo, giocatore tattico, giocatore di rottura, chiaro. Nicola Milano, buongiorno. Buongiorno, sono di Milano ma sono tifoso del Napoli. Ieri sì, chiaramente ho visto la partita e non Sanremo. Beh sì, come mi sembra che abbiamo sentito anche prima nel GR, Sanremo non benissimo, anche ieri. Ma anche perché ci sono le partite, quindi evidentemente anche per quello. Volevo dire che sono più fiducioso sul ritorno, sulla qualificazione al prossimo turno del Napoli, però pensando che poi Jorginho non ci sarà mai fino alla fine, ho paura che non faremo molto strano, perché la qualità in mezzo al campo, visto che non c'è, sebbene sia arrivato a gennaio, non ci potrà essere la roba, sì, lì. Io ancora non capisco perché Benitez non l'abbia inserito in quella benedetta lista, che mi è sembrata una cosa molto strana, però non credo che sia così determinante. Secondo me quello determinante è il numero 9 là davanti, che ieri sera ha giocato acciaccato. Napoli mi è sembrato un po' stanco, porta a casa questo 0-0, passerà il turno, io credo, fuori solo la Lazio, posso immaginare. Andrea, penso di sì. Sì, credo che l'uomo determinante del Napoli porti il numero 9, stia là davanti. Altri uomini determinanti del Napoli, secondo me, sono Mertens e Callejon, che hanno una velocità spaventosa e garantiscono sempre l'uno contro uno e spesso vanno in superiorità numerica. Sì, il centrocampo, certamente Jorginho dà più qualità, però io credo che per l'Europa League possano bastare anche Iberami, Zmaili o Hiller, credo. Ecco, più che altro ieri si è un pochino sofferto perché mancava la coppia centrale, che già non è stratosferica di difesa, che è Albiol Fernandez, quindi secondo me le difficoltà maggiori sono nate da questo. Sì. Poi per il Napoli in questo momento è estremamente importante proseguire questa striscia di partite senza subire gol, perché così aumenta. Certo, l'autostima. Esatto, l'autostima, perché poi Napoli è una squadra che non fa tantissima fatica a farne di gol al netto di ieri sera. No. Andrea, grazie, ti abbraccio. Grazie mille. Ciao Andrea Schianchi. Ciao. 800240024, adesso ci fermiamo per la borsa, poi arriva Pardo, dovrebbe arrivare Cruciani, arriveranno altri ospiti, arriveranno gli ascoltatori. Insomma, solita mucchiata, a dopo. Tutti convocati. Trapattoni va a allenare la Costa d'Avorio. Giuseppe Cruciani è arrivato, ma ha problemi con la cuffia. No, sento, non ti preoccupare. Vai. Male ieri, Maluccio a Lazio. Abidjan, dov'è? Capitale della Costa d'Avorio, chi c'è? Abidjan. Pardo c'è? Pardo lo stiamo cercando nella metropolitana di Londra. Mamma mia, che sta tornando dal Galles. Sì, perso, perduto nella metropolitana di Londra. Vabbè, che vogliamo fare? Parliamo di Maradona che torna a giocare. Ma però mi incuriosisce questa cosa. Capitale della Costa d'Avorio, sai qual è? No? Com'è che si pronuncia esattamente? Abidjan. Sì. Abidjan. Il trap ad Abidjan, dalla Brianza, dove che abita? Lui a Cusano Milanino. Cusano non è Brianza, forse. Sì, credo sia Brianza. Cusano Milanino. Brianza. Da Cusano Milanino ad Abidjan. Sì, ha fatto un giro lungo. Stupendo. Ha fatto un giro lungo. Maradona che torna a giocare. Quante volte ci andrà? Dove? Abidjan? Ma va là a abitare. basta, là. Ma che abitare, gli danno a villa e impara che si parla in cosa trap parla? L'africano trap l'africano che ha detto poi torna dalle a giocare, ma è uno scherzo, è sul serio? No torna a giocare Serie D Argentina. Vabbè dai, su, è uno no, scherzo, sai perché? No perché c'è uno dei suoi agenti, tale Victor Stinfale, che è proprietario di una squadra di Serie D Argentina, ha detto: Diego, perché non fai il dirigente? Ho detto: no, voglio giocare. Vabbè, 23 marzo in campo. A che sport? Calcio sicuro? Sì, pare. Sì, non sì. È curling, no? Con lui nel ruolo della ti piace il curling, di quella specie di cosa roteante. Hai guardato Carolina Costner? Hai guardato Carolina Costner? Sei impazzito. Mi picco di avere visto in tutto credo 40 minuti di Olimpiadi invernali. Cosa? Una quarantina di minuti. Cosa hai visto? Beh, le fasi finali di uno slalom l'altro giorno. Sì. Gli ultimi 10 della discesa libera e basta. Sì, poi comunque voglio parlare di Lazio con te. Poi mi spieghi. Voglio parlare di Lazio, mi spiegherai lo striscione. Questo Pardo, striscione. Voglio Pardo, dov'è? Lo tito Peppa Pig. Pardo è perso nella metropolitana di Londra. Ma adesso lo troviamo, non ti preoccupare. Invece sono curioso di sapere il tuo parere sulla vicenda settimanale Conte Capello Conte, litigano quello che dice: ah, io i giocatori non li ho mai puniti. Conte che giustamente secondo me replica. Beh, da che parte stai? Sono dalla parte di Conte, semplicemente perché credo che l'allenatore della Russia non possa sapere quello che avviene all'interno di una squadra. Solo questo, poi ha ragione forse a dire che il campionato italiano non è particolarmente allenante, eccetera. Perché invece quello spagnolo un sacco, quello spagnolo allenante. Ma appunto, per cui magari non so, ha ragione, può avere ragione, cioè si può discutere di questa roba qua. Però sinceramente la punizione, eccetera, quello sono solo i giocatori a giudicare se una cosa va bene o una cosa va male. Cioè, non mi pare che uno che abita in Russia, conosce ormai marginalmente l'ambiente della Juventus, possa dare giudizi su come Conte, su quali rapporti ci siano tra Conte e lo spogliatoio e quali siano i migliori rapporti che Conte può avere con il suo spogliatoio. Questo sì, mi è sembrato francamente. Se ficchi il naso in casa mia, io reagisco. Quindi poi ha reagito magari in maniera scomposta. Però non sono uno juventinologo, dunque non so lo stato dei rapporti tra Conte e Capello nella storia, insomma, come si sono evoluti cattivi rapporti, non buoni rapporti, non si amano. No, vabbè, ce ne faremo una ragione. Gian Verona, no, aspetta un attimo Gian, voglio farti sentire una cosa. Giuseppe Cruciani, dimmi, senti questo. Rossoneri pazzi sinceri. Che roba è? Che orrore! Sono gli ultra dell'amore. Gli ultra dell'amore? Questi sarebbero gli ultra dell'amore. Perché? Beh, rossoneri falsi sinceri, ci avete rotto il calcio. Ah, ma sono quelli che hanno parafrasato i soliti cori che conosciamo bene. Ma gli stessi però. Sì, gli stessi. Lavali per gioco. Stupendo, no, ma oltre alla violenza ogni tanto nelle curve o tra i frequentatori delle curve evidentemente c'è anche grande creatività. Sì, ma c'è sempre grande creatività. Gian Verona. Buonasera. Buonasera, buongiorno. Pardo, dove sei? Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Buonasera anche a dottor Cruciani. Vai. Vorrei intervenire infatti perché ho appreso la notizia che Trapattoni va a allenare la Costa d'Avorio. È una bella notizia per me, perché è ora che la Costa d'Avorio punta su un coach di grande esperienza come Trapattoni. Sono molto contento perché mi ricordo che nel 4 anni fa avevo puntato su Trapattoni, ho dato anche il suo nome alle autorità ivoriane, però non mi hanno ascoltato. Ha dato il suo nome alle autorità ivoriane? Sì, e come ha fatto? Sì. Ho mandato una lettera al Ministero dello Sport. Sì. E insieme a quello di Ancelotti, però non mi hanno dato ascolto. Adesso hanno capito che tutti gli allenatori che hanno preso nel frattempo sono dei allenatori di seconda e terza faccia. Io sono veramente contento che sia Trapattoni, perché con Trapattoni la Costa d'Avorio al mondiale farà dei passi giganti, io son sicuro, per l'esperienza e la serietà che mette. Beh, vediamo. A parte che dopo il mondiale, dopo il mondiale. Volevo complimentarmi un po' con voi. Ecco. Finalmente hanno accolto le sue missive e hanno ingaggiato Trapattoni dopo il mondiale, perché fino al mondiale ci sarà la Mouchy con Trapattoni che agirà come uomo. Sì, ma la cosa curiosa è che non è che per adesso la Costa d'Avorio sia andata male, perché sono anni, non so, sarà la terza edizione consecutiva in cui si qualifica ai mondiali. La Coppa d'Africa, l'ultima, credo che l'abbia vinta, o sbaglio, o l'ha persa ancora una volta in finale. No, l'ha persa. Comunque, insomma, non è che la Costa d'Avorio sia ai minimi termini, ha bisogno del mago Trapattoni o del grande vecchio. Non vedremo mai un africano a vincere un mondiale. Per risollevarsi. Io questo non lo so, credo di no, per almeno per i prossimi 20 anni. Ma al di là di questo, in Africa gli allenatori si consumano molto velocemente, ricordiamoci di questo. Molto molto velocemente, per cui sarà quasi un'impresa durare, adesso non so quanto sia il contratto, da qui magari ai prossimi mondiali per Trapattoni. Beh, sarà per forza così, perché sennò l'allenatore lo prende. Beh, c'è la Coppa d'Africa, sì, eccetera. Beh, però comunque, insomma, la sostanza è questa, che gli allenatori si consumano molto velocemente, per cui non si può sapere se questo resta oppure no. Bisogna vedere anche gli umori, i politici lì in Costa d'Avorio. E poi ripeto, non è che per adesso la Costa d'Avorio sia così scarsa. Io ho mandato una lettera al ministro dello sport perché faccia prendere Cristiano Ronaldo alla Juventus, Marco da Bologna. Fabio, provincia di Lodi, buongiorno. Buongiorno gente, mi ha anticipato prima sul discorso relativo di Cappello riguardo il calcio italiano allenante. Se guardiamo il Milan, mercoledì sera ha giocato con la prima in classifica del campionato spagnolo e non mi sembra che abbia sfigurato, anzi poteva anche vincere quella partita, quindi sì. Se quelli sono primi, voglio dire, in un contesto del genere anche Milan, che questo Milan, ahimè, potrebbe fare gran bene. E sì. Poi un'altra considerazione, un invito: parliamo di più di calcio giovanile. Io ho la fortuna di vedere tutte le domeniche gli allievi nazionali, perché mio figlio ci gioca, è uno spettacolo, senza parlare la primavera del grande Pippo Inzaghi, al quale Pippo Inzaghi è stato nostro ospite l'altro giorno. Sì, possiamo parlare di calcio giovanile, possiamo parlare di mille cose, sì, però alla fine chiudiamo la serranda, poi chiudiamo la serranda, oppure passiamo al curling. No, adesso hai fatto un paragone ingeneroso tra il curling e il calcio giovanile. No, ma non è questione, il calcio giovanile secondo me si gioca, si va a vedere, poi c'è sempre questo paradosso qui per cui bisogna parlare di una cosa che altrimenti non è importante. Quando vedremo delle folle oceaniche a vedere il curling, allora parleremo di quello tutti i giorni, no? Ti pare? Ma no, ma sono d'accordo con te, figuriamoci. A proposito del Milan invece, come l'hai visto? A calcio si gioca 90 minuti, Milan ne ha giocati 45. Esatto, nel complesso ho visto, è vero quello che dice l'ascoltatore, cioè che il Milan, che è in campionato settimo, ottavo, nono, quello che è, non ha sfigurato davanti alla prima in classifica del campionato spagnolo, non c'è dubbio, e questo è vero. Però nel complesso, io ho visto tutta la partita, mi è sembrato comunque più squadra in qualche modo l'Atletico Madrid, più compatta, più adulta, più sicura di sé, e francamente negli ultimi 20 minuti non dico che era nell'aria, però aspettava. Vabbè, chiaro, il Milan è calato, quelli hanno avuto il culo comunque di finire il primo tempo senza gol, perché 1-0, certo. L'1-0 ci stava, poteva essere una partita da pareggio, poteva essere una partita 1-0 da 1-0, come sai, in casa l'andata è un ottimo risultato. È ottimo. Paola? Buonasera, volevo solamente dire che in questo momento ci sono in onda le due voci più sexy della radio italiana. Più, scusi? Sexy. Ah. Bene. Bene. Sexy. Registriamo e portiamo a casa. Bene, buon fine settimana. Tutto qui? Tutto qui. Non diciamo nient'altro? Sì, vi ho sentito insieme, siccome normalmente... Ogni tanto ci frequentiamo. Ti sento in orari separati, ci tenevo a dirvelo. Sì, un giorno Cruciani mi inviterà alla Zanzara, così chiude anche quella. Ecco, allora chiamerò anche... Facciamo chiudere tutto. Io avrei altro che mi piacerebbe dire, per la verità. E allora lo dica, che siamo qua apposta. Anche se non è certamente, ma l'argomento che vuole, è a scelta. Va bene, allora... Io vorrei che qualcuno si desse da fare per fare una rivoluzione borghese. Pacifica? Una rivoluzione borghese. Borghese. Beh, La rivoluzione borghese anche nel calcio ci vorrebbe, no? Sì. Una rivoluzione borghese. Hai sentito quella di Paolillo che è tornato a dire Milan e Inter insieme per contrastare la Juventus? Paolillo chi? Paolillo ex Inter, che esatto, è Inter, o ancora ex Inter. Ex amministratore delegato dell'Inter. Che ha detto Milan e Juve insieme per contrastare l'Inter, che ha detto? Inter e Milan, un solo club per restare grandi in Europa, pagina 62 di Repubblica, provocazione di Paolillo, ex DG dei Nerazzurri, solo la Juve resiste. Vabbè, è una follia, insomma. Chiara, è una chiara follia. D'altra parte, va a leggere la classifica, Juventus 63, Milan e Inter insieme, 71 insieme, Sì, sarebbero sì, prima classifica. Un discorso che si fa da un po' di tempo, però, insomma, adesso francamente va bene il campionato europeo, va bene i sogni di fare una roba che va al di là dei campionati nazionali, cosa che io ritengo sbagliatissima, addirittura pensare che Inter e Milan si possano fondere contro la Juventus ti devono portare via, non con l'ambulanza. E poi Roma e Lazio insieme facciamo i comuni, facciamo i comuni. Guelfi e Ghibellini, vabbè, Pardo è stato sequestrato a metropolitana di Londra, però stiamo pagando un riscatto dopo il traffico arriva. Struz in svaiarias che spil sen spil in cima per lef Vassa, Erlaube, Struth! Tutti convocati. Prima a tavola stavi lanciando una provocazione. Ma non è una provocazione, è un'idea che si vede le grandi società nel mondo, le due grandi società dovrebbero andare insieme, no? Per battere i costi e per avere magari gli stessi obiettivi. Io non capisco per esempio perché l'Inter e il Milan non vanno insieme, hanno tutte e due spese centinaia e centinaia di milioni, sono tutte e due presidenti che hanno al di là grande società, e io penso che invece di cercare di vendere le società all'estero, di fare una grande società a Milano. Milano è una piccola città, 1.200.000 persone, i tifosi dovevano capire che solo così possiamo combattere la concorrenza di Barcellona, di Real Madrid, di Manchester City. Facendoli insieme io credo che si può fare una grande società. Questo è il mio procuratore Mino Raiola, Giuseppe. E vabbè, che vuoi fare? Cioè, anche Raiola si aggiunge alla lista delle persone da ricovero da questo punto di vista. Un ascoltatore scrive Paolillo da gerontocomio. Comunque è emerso dalla metropolitana di Londra. No, ma tra l'altro sono perché qui tutta ma la sai dove? Cioè, un'ora di ciocchiamo, dai. Sono scelto a West End, quindi proprio capisci. Ma io scusa, spiegami una cosa, malato di mente, ma come si fa, perché tu da Swansea vai a Londra, al quartiere di West Ham, invece di prendere un aereo, tornare immediatamente in Italia, essere presente? Swansea Milano non è un classico dell'aviazione, capito? Non sì, ho capito, però dovresti fare anche Swansea direttamente aeroporto, non Swansea West Ham, scusami. No, adesso sto andando in aeroporto, perché da Swansea si arriva a Paddington, Paddington. Arriva l'aereo da London City Airport, che è vicino al luogo dove è nato l'Arsenal. Sì, perché ti sei svegliato tardi? Sei da cazziatore. No, ho preso il treno regolare. Tra l'altro voglio anche dire una cosa su questi treni gallesi, che insomma non è che proprio noi ci lamentiamo delle volte. Ecco, no, insomma siamo i treni in Inghilterra notoriamente, a parte alcune tratte, non sono il massimo della vita. Comunque, caro Pardo, io ti devo cazziare per conto di gente, perché lui non ha il coraggio di farlo, ma lo faccio io apertamente. Dica. Cioè, tu quando organizzi queste trasferte lunghissime in terra di Scozia o in terra di Galles, che hanno problemi logistici, devi fare in modo di dire ai tuoi amici che ti organizzano, i tuoi dirigenti che ti organizzano, le tue segretarie che ti organizzano questi viaggi, rendere tutto compatibile con la presenza. Suonate pure voi, grazie ragazzi. Come direbbe Parenzo, questo è il paese reale, io ti abbraccio fortissimo, è il paese reale. Ma quale paese reale, se stai in viaggio? Basta. Del calcio e andando sui treni dei gallesi, che va bene, Pardo, basta, abbiamo capito. Michele Plastino, sta buono. Michele Plastino, buongiorno. Ciao Michele. Buongiorno, ciao. Io posso ricattare Pardo perché sono quello che lo conosce da più anni. Michele, ciao, ti abbraccio. Di qualche cosa sulla, come dire, di Pardo giovane, degli inizi di Pardo. Adesso sempre stato bello, Michele, vero? Allora, sempre stato bello. Pardo giovane è uguale adesso, nel senso non che un giovane vecchio, era così. Sì, era così, con la sua, io gliel'ho chiesto proprio l'altro giorno, l'ho intervistato per il sito, per un mio sito, proprio lui è così, cioè la sua, io ho detto come hai fatto a trasformare la tua esuberanza in professione, cioè, lui è così. Ma era sempre così grasso oppure era più magro? No, lui è un po' grossetto mascherato, perché poi alla fine la sua altezza gli permette... Sì, lo so, è un falso magro solo. Sì, poi era Chiappone. Aspetta Pierluigi. Io sono a West Ham adesso. Dai, zitto! Perché i diritti televisivi d'Italia nel calcio sono stati placidi 30 anni fa, è un dato di fatto, è football please, sono il primo, c'è ancora... Ma non mi ricordo, le prime partite del campionato inglese comprate da Placido, non da lui direttamente ovviamente, e riproposte... No, da me, di lui, da lui. Non mi fate riaprire la ferita e la frustrazione, no, comprate proprio da me insieme al brasiliano, al tedesco e allo spagnolo e poi scippate, vabbè, sì. Basta. Michele, mi spieghi, Cruciani vuole chiederti una cosa, il significato dello striscione... Io gli voglio bene, Cruciani. Sì, anch'io. Significato dello striscione Lotito Peppa Pig. Ma che ne sa? Non lo so, quello sinceramente non lo so. Poi sul Lotito potrei scrivere un libro, ma su questo striscione me lo chiedevo anch'io lo so. Prendo questo come abbrivio. Ma cos'è, tipo maiale? Invece di dire maiale hanno scritto Peppa Pig? Sì. Potrebbe essere o cartone animato o pagliaccio. Ci deve essere qualcosa sul Peppa che noi. No, che il oscuro. Senso è che non io continuo a non capire questa guerra santa nei confronti di Lotito. E quanti secondi ho? O quello che vuoi, vai. No, allora cominciamo a dire, ti do intanto un postulato strano, nel senso che ognuno di noi sceglie la propria squadra per svariati motivi e quindi un laziale adesso direbbe, vabbè, che non lo sai, e io dico al laziale che ascolta, no, non lo possono sapere a distanza perché non vivono quotidianamente quello che è un rapporto tifoso e società, perché chi fa il giornalista da tutte le parti vede magari alcuni risultati e inevitabilmente si ferma a quello e si può chiedere perché. E allora, prima cosa, partiamo dal presupposto che la Lazio è l'unica società, non solo in Italia, ma credo, guarda, io ho fatto delle ricerche al mondo, che ha una curva autochiusa, che tra l'altro porta il nome di Maestrelli, che per il laziale è proprio un idolo del cuore. Allora, motivi economici, ci va poca gente, allora non si spendono soldi per gli steward, tutto quello che ti pare. Tra l'altro per Lazio Sassuolo, di cui poi ti dirò, verrà eccezionalmente riaperta perché sono esauriti i posti dell'altra curva. Comunque, uno si dice... Sono tutti questi i motivi? Va bene, sono tutti questi. E allora c'è un'altra cosa importante che è alla base della comunicazione, no? Perché? Perché la Lazio ci va così poca gente? Perché nella Lazio sono più i disamorati che i vecchi innamorati? Allora, il calcio è comunque un'azienda e su questo non c'è dubbio. E dal punto di vista di gestione amministrativa non siamo qui a sindacare quello che può più o meno aver fatto bene, anzi, Lotito. Però è un'azienda particolare, no? È un'industria, ma che si basa anche sulla passione, sul cuore, altrimenti sarebbe una pianta senza linfa, una macchina senza benzina. Allora, per capire quello che succede nella Lazio va esaminata questa parte, cioè quella della passione, che si divide per me, guarda che schema mentale c'ho, in pratica e filosofia, sembra un trattato. Pratica, sono veloce, le campagne acquiste e vendite della Lazio, nel senso che intuizioni, Colaro, Fernane, Lichtstein, i migliori, via. I rinvestimenti, ragazzi, non ci dimentichiamo, il laziale non dimentica che quando la Lazio è approdata, Calciopoli eccetera, alla Champions, l'unico acquisto fu Vignaroli, con tutto il rispetto del bravo Vignaroli. Poi altri giocatori, ti faccio alcuni esempi: Pandev, Berami, Ledesma poi rientrata, Stendardo, lo stesso Di Canio dopo. Però mi sembra che questa sia abbastanza la dimensione della Lazio. Non so Cruciani come la pensa. No, io la penso in maniera diversa da Michele, perché secondo me la Lazio più di altre squadre subisce quello che è in realtà l'anima del, con qualche eccezione, dei tifosi italiani, cioè grandi masse, grandi consensi nel momento in cui ottieni qualcosa e stadi mezzi vuoti, chi più chi meno, quando le cose vanno male. Questo che non succede, come Pierluigi sa, per esempio in Gran Bretagna. Non devi dimenticarti, all'inizio dell'anno, di quest'anno, dopo la vittoria della Coppa Italia, io sono andato, vado pochissime volte allo stadio ormai, mi trovavo in vacanza da quelle parti, sono andato in un giorno di agosto, una domenica se non sbaglio, di agosto, alla finale di Supercoppa italiana con la Juventus e c'erano 60.000 persone, per cui è come al solito la solita onda, cioè che va e viene. 30.000 juventini, lo stadio era diviso a metà. No, ma comunque, cioè, vuol dire, il problema è sempre quello, che nella Lazio magari si avverte di più, come si avverte di più in altre squadre, cioè gli stadi italiani, il tipo di tifosi, eccetera. Giuseppe, è diverso, perdonami, è diverso nella Lazio, è proprio diverso, perché la curva chiusa non ce l'hanno le altre. Aspetta, Michele, sì? Ti posso interrompere? Abbiamo giornale radio, prego. Voglio sentire se Pardo è ancora West Ham. Se no, io sto sentendo, no? Io vorrei poi capire operativamente, sì, che cosa Michele chiederebbe, cioè che cosa farebbe lui se diventasse presidente della Lazio domani. Qual è la cosa per riconquistare la popolarità dei tifosi di quella festa di tifosi di San Borato? No, ma io sono incazzato di una cosa soprattutto, adesso dobbiamo concludere, cioè che quello fa giocare a Catania la squadra titolare e con il Ludogorets, partita secondo me più importante, giocano i sostituti. Questo hai ragione da vendere. GR poi qui. Forza Cristo, 2:06:29 è secondo e medaglia d'argento. Ultime curve per Zöggler, ultime curve prima della leggenda, primo Zöggler, sicuramente a medaglia, Armin Zöggler. Arianna, che sei l'ultimo giro. Dai Arianna, che l'argento si può fare. Arianna Fontana, argento. 2:45:20, il tempo da battere in diretta per passare al comando per Christopher Hinnerhofer. Arriva, abbiamo una medaglia di bronzo, incredibile, bravo, impensabile, Ine. Con Christopher Hinnerhofer. Partite, la finale dei 1500 metri. Dai Arianna, devi sfruttare il tuo sprint. Zushi Marianna, chiudi e lanciati. Zushi Marianna, è bronzo. Seconda medaglia olimpica per Arianna Fontana. La Corea allarga il mondo. L'Italia è terza. Andiamo a bronzo anche in questa occasione. Comincia quindi questa staffetta mista. Buono anche il quarto. E sì, buono anche il quinto. E l'Italia si prende la medaglia di bronzo. Sì! Ci siamo! Ci siamo! È la migliore Carolina Koster di sempre. Convocati. Piace questo, Giuseppe? Poco. Preferivi quelli prima? Sì. Va bene, un po' più creativi. Allora, questi cori vengono fatti per evitare le sanzioni? Questi cori sono una parodia di quelli che determinano le sanzioni. Situazione grottesca comunque questa. Tutto grottesco. C'è Pardo, tornato da West Ham? Sì, sì. Ti starà informando sul prossimo arrivo di Zanetti al Chelsea, no? Ma da quello che mi risulta è una delle più grandi... Fesse, sì? Si può dire boiare, sì, nel senso che... risulta, ho fatto delle verifiche, mi risulta che non sia un'ipotesi, poi che magari in futuro Mourinho ci possa pensare, che Arias Zanetti sia chiaramente uno straordinario ambasciatore, un uomo di campo eccezionale, quindi questo è evidente, però insomma da quello che mi risulta al momento non c'è nulla. Poi vediamo. Michele Plastino, eravamo rimasti con una domanda in sospeso. Cosa, di Pardo, cosa che faresti? Che farebbe lui se fosse il presidente domani mattina per recuperare consensi, per ridare identità ai tifosi della Lazio delusi adesso? Un confronto con Grillo. Ma delusi adesso, poi questa cosa qua è una boiata, come diceva prima Pardo. Ma di che stiamo parlando? Fino ad agosto dell'anno scorso erano i tifosi più contenti del mondo, per cui come al solito si va ad ondate, erano pronti a mettere Lotito su un piedistallo. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Dai, su, ma ancora parliamo di tifosi delusi. E... Ma Giuseppe, non lo so questo, Michele, erano pronti a mettere Lotito su un piedistallo? Ma sì, dopo dai. Il 6 maggio? Michele? Basti, no? Sparito. Dica! Io sono abituato a queste cose, per cui non mi stupisce. Quindi quella di Zanetti non sta in piedi, mi dicevi? No, da quello che ho fatto una verifica stamattina, insomma, con persone... sarebbe stato divertente, però. Sì, anche se poi io penso che Zanetti, cioè se c'è uno che rappresenta la bandiera all'Inter è Zanetti, per cui sarebbe un peccato che la storia finisse male. È chiaro che adesso c'è una un cambio comunque di presidenza, e quindi ci può essere anche che qualche ripensamento su una decisione che era nell'aria da anni, cioè che Zanetti dopo la carriera avrebbe continuato da dirigente all'Inter. Sì, secondo me non sarebbe comunque una cattiva idea né per Zanetti né per l'Inter, perché continuo a pensarla così. Michele Plastino è tornato. Sì, rispondeva Giuseppe. No, volevo semplicemente dire che una cosa è il risultato e una cosa è questa affettività nei confronti di Lotito. È chiaro che la vittoria non della Coppa Italia, ma la vittoria della Coppa Italia sulla Roma aveva destato un entusiasmo contingente, si era riaperta forse una carta di credito, una linea di credito che poi non si è sviluppata. Io rispondo a Pardo soltanto con alcune precisazioni. Cos'è che al Laziale non sta bene? Le cause con tutti i giocatori che vanno via, la causa stessa con Petkovic. Il fatto, vi faccio un esempio dell'uso della tifoseria. Io non sono mai andato d'accordo con le curve, quindi da questo punto di vista credo che sia una vecchia storia, però l'uso della curva per fare le manifestazioni, per avere l'allungamento dei soldi da dare all'erario, per poi abbandonarli, gli prendi Di Canio per quello, poi glielo mandi via, non dici una parola sulla morte di Gabriele Sandri per paura delle istituzioni, quando la persona che più ha detto delle cose belle per Sandri è stato il povero Manganelli, che non c'è più, l'abbandono di quelli di Varsavia, insomma ci sono tantissime di queste cose. Ma che faresti, Michele, da presidente della Lazio, che faresti? Allora, io intanto da cristiano non farei il cattolico esasperato che a ogni cosa dice io sono cattolico per cui bisogna fare così e colà, il moralismo di bassa lega. Farei la persona normale, andrei in conferenza stampa non soltanto quando vinco, ma ci andrei anche quando perdo. Aprirei anche la possibilità a qualche bella immagine di Lazio di esserci, perché i tifosi hanno bisogno anche di questo. Farei una campagna acquisti molto più dignitosa di quella che magari in questo momento viene fatta, cioè nel momento, per carità, ad agosto sembra anche le cose fatte bene. L'altro anno la Lazio era seconda in classifica a gennaio, a 3 punti dalla Juve, e non è successo niente. Allora di questo io credo il tifoso abbia bisogno, e non sto parlando né da ultra, io sto parlando anche da osservatore di quello che vedo, e di persona che vorrebbe, da laziale in questo caso lo dico anche a Giuseppe, lasciamo da parte la professione, ma da vecchi laziali, ma potremmo avere bisogno di un'immagine che ci rappresenta in un certo modo. Poi nulla da dire, io vorrei che lui fosse felice, cioè che lui avesse la possibilità di vendere la Lazio bene, che ne desse la disponibilità e che fosse felice. Non auguro morte come magari lui spesso fa al telefono quando sono uscite le intercettazioni. È questo che noi, è il modo che il tifoso della Lazio respinge e che solo chi lo vive quotidianamente può capire. Poi l'augurio è che sia felice. Io penso esattamente all'opposto, e penso anzi che ci vorrebbe, no, penso che ci vorrebbe invece una proprietà all'opposto di quella di Lotito, ma non nel senso che intende Plastino. Questo vale un po' per tutti, cioè qualcuno che non sia tifoso e che pensi invece a investimenti, a cose, che sia anche staccato dalla realtà locale, a una presidenza, perché no, come quella della Roma, tanto criticata nel passato, ma che invece adesso, come dire, non fatta da romanisti, ma da gente che vuole investire sul marchio, eccetera, eccetera. Come sarà ma quella... non è proprio così, Giuseppe, non è così neanche nella Roma, però. Quali sono i romanisti adesso? I romanisti adesso dove sono lì? Dov'è la Roma? Baldissoni. Sì, d'accordo, però stiamo parlando di figure della banca, di figure di media. Persone della banca. Certo, ma sono persone di, come dire, non di grandi, altissimo profilo. Grazie Michele. Scusate, per voi è poco tifoso o è troppo tifoso? Chi? È poco tifoso agli occhi della curva e della tifoseria, o no? È questa una delle cose, Michele, che diceva. Agli occhi della tifoseria non è tifoso, e non è neanche però il mecenate che viene da fuori, cioè, quindi è questo il problema. Per questo noi vorremmo qualcuno che magari venga anche da fuori, come dice Giuseppe, investa, eccetera, con delle immagini, però come appunto, tra l'altro, tra virgolette, può aver fatto la Roma, o come può darsi che farà l'Inter fra poco. Questo magari è un augurio, ancora non l'ho visto, ma magari sia così, perché ci vuole quello che collega la grande macchina, la Ferrari, alla benzina, se no la macchina non parte. La benzina e la passione, tutto qui, questo volevo dire. Questo, grazie Michele, un abbraccio. Grazie a voi, un saluto, ciao, a tutti. Ciao. Bari, Francesco. Sì, ciao. Prima di tutto volevo, in quanto barese, volevo sottolineare che quello che ha detto Cruciani è esattamente la verità. Basta guardare quello che sta facendo Matarrese a Bari. Allo stadio di domenica, meno di 1000 tifosi, uno stadio da 60.000 spettatori. E quindi io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Cruciani, cioè, grande uomo cosa, che vorremmo come ministro dell'interno, assolutamente. Ma chi? Ma la mia telefonata è un'altra. Ma chi è ministro dell'interno? È una domanda che suona Cruciani. Quasi come un'eresia. Ma non è che forse Balotelli non è una punta, ma dovrebbe giocare dietro le punte? No, Pardo l'ardua risposta. No, io penso di no. Io penso che Balotelli sia una punta, certamente non è un giocatore inquadrabilissimo. Ieri Sacchi ha usato l'espressione molto molto covercianese, no? Che si connette poco con il resto della squadra, c'è poca connessione con il resto della squadra. Sicuramente non è il giocatore più facilmente inquadrabile da questo punto di vista, non è una prima punta di tipo tradizionale all'inglese, visto che... Sì, ma tutti i grandi attaccanti non è che si connettano tantissimo con il resto della squadra. È anche una frase, Ronaldo, il Sacchi nella sua tradizione, cioè è una cosa che ripete da anni e anni, sempre la stessa, ma ovviamente io non sto mettendo in dubbio il pensiero di Sacchi. Sacchi è un maestro, comunque è l'attaccante Balotelli, dai, secondo me dietro le punte assolutamente non ce lo vedo. Beh, Cassano si connette con il resto della squadra, no, appunto. No, lo so, dimmi Cassano, scusate, Cassano tecnicamente si connette tantissimo con il resto della squadra, poi magari non si connette in certi momenti dal punto di vista dello spogliatoio, questo senz'altro, questo si può anche fare. Col cervello ogni tanto, sì, ma dal punto di vista, cioè, se c'è un uomo che è l'uomo assist per eccellenza, scusate se faccio questo momento da avvocato difensore, no, però da quel punto di vista non credo ci siano dubbi. Poi appunto magari ti può creare dei casini nello spogliatoio, ci possono essere dei motivi per non preferirlo, non ha un dinamismo ovviamente molto sviluppato, insomma, sì, i difetti non mancano, però dal punto di vista del giocare per i compagni, il Cassano negli ultimi anni è un giocatore esemplare, credo che non ci siano discussioni su questo. Sì, sì, resta il fatto che continuo a non capire tutto questo accanimento nei confronti comunque del più forte giocatore italiano, che resta il numero 45 del Milan, a mio parere. Poi possiamo discutere di mille cose, può stare sulle palle a tanti. Ma sì, ragazzi, ma dove li vediamo gol come quelli che ha fatto contro il Bologna? Esatto. Chi li fa in Italia? Nessuno. No, è ovvio, ma infatti siamo appesi a lui, cioè non, ma lo diceva anche Sacchi ieri, diceva che appunto, e io secondo me, guarda, l'ha spiegato benissimo, perché l'ha spiegato in maniera post ideologica, senza fare il balotelloide o l'anti-Balotelli. È chiaro che è un giocatore che ha dei limiti, che deve migliorare anche dal punto di vista tecnico del rapporto con i compagni, nel fare dei movimenti di smarcamento che non fa. Vabbè. Ma è ovvio che è un giocatore che non puoi tenere fuori, che si tiene acceso a ogni possibile speranza. Certo, poi io preferisco uno che deve imparare quelle cose, però ti risolve una partita con una bomba da 30 metri e ciao a tutti. Ciao a tutti, a proposito, dove stai andando? Dove West Ham e poi cosa commenti? No, sono in aeroporto. Sono in aeroporto, domani sera Bologna-Roma, poi lunedì tiki-taka e ovviamente non mi perderò nemmeno la puntata di stasera della Zanzara, Sì, chi viene? Chi c'è stasera? Stasera? Ma che ne so, ma è frequenti cattive compagnie. Ma come che ne sai? Ma è una redazione al lavoro, il signor Cruciani, cosa stanno partorendo? Ma qualche scherzo come al solito, dai. Comunque non si sbottona, dimmi. Sì. Dimmi, poi no, ci salutiamo. Ho parlato l'altro giorno lì con l'imitatore di Renza, una cosa super, una roba fuori dal mondo, al netto di tutte le conseguenze politiche, è una roba straordinaria, cloniamolo, facciamolo intervenire a tutti i convocati, A qualche personaggio sportivo, sì, ce l'ha in canna, sì. Uno Zoff straordinario, esatto. Per non parlare di Eriksson, ma lì era una gara con Pardo, per Eriksson. Va molto bene, ma I'm in England and I would like to say I wish to congratulate to Mr. Cruciani for Zanzara, very good. Si good. Ciao Pardo, alla prossima. Ciao, Pier, ciao. Giuseppe, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Buongiorno, benvenuto Urbano Cairo, presidente. Buongiorno a voi. Ventura, intanto io credo che noi riusciremo a breve anche ad annunciare il fatto che rinnoveremo il contratto per qualche tempo. Io penso che sia una cosa molto matura. Stiamo facendo buone cose insieme, ci siamo capiti, c'è una buonissima sintonia. C'è Pippo Inzaghi, ciao Pippo. Ciao Pippo. Ciao, buongiorno. A me piace parlare poco, sì, e andare avanti per la mia strada, come ho sempre fatto, crescendo di volta in volta. Io penso che il lavoro, la costanza, la voglia, alla fine paghi, per cui io cerco di portare avanti questi miei principi, ecco. Era vera questa storia della Bresaola, che eri fissato con la Bresaola? Sì, no, ma la Bresaola è un alimento che quando giocavo, anche adesso,